Chap, chap, chip, chap, chap, venne all'acqua, venne all'acqua. Chip, chap, chap, chip, chap, chap, venne all'acqua a nadare. Chip, chap, chap, chip, chap, chap, che me mojo, che me mojo. Chip, chap, chap, chip, chap, chap, che me mojo all'entrar. Chip, chap, chap, chip, chap, chap, viene una ola, viene una ola. Chip, chap, chap, chip, chap, chap, viene una ola y se va, viene una ola y se va. Chip, chap, chap, chip, chap, chap, ven al agua, ven al agua. Chip, chap, chap, chip, chap, chap, ven al agua a nadar. Chip, chap, chap, chip, chap, chap, que me mojo, que me mojo. Chip, chap, chap, chip, chap, chap, que me mojo al entrar. Chip, chap, chap, chip, chap, chap, viene una ola, viene una ola. Chip, chap, chap, chip, chap, chap, viene una ola y se va, viene una ola.